Voci dal Giro. Taylor Finney, americano, è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2012. Ha vinto infatti la cronometro inaugurale di 8 km a Dering in Danimarca, 10 minuti e 26 secondi il suo tempo, secondo il britannico Thomas, terzo il danese Rasmussen. Ma ora un giro d'opinioni sui protagonisti italiani annunciati di questa corsa rosa. Ivan Basso ha chiuso in 11.05 a soli 3 secondi da un altro grande favorito come Kreuziger. L'obiettivo dichiarato, malgrado l'avvicinamento tormentato al giro, per Ivan Basso è il podio di Milano, lo dice anche Stefano Zanatta, direttore sportivo della Liquigas. Ma diciamo che Ivan è abituato a partecipare alle gare per essere protagonista, questo è un po' anche lo spirito della nostra squadra, la Liquigas Canyon, e quindi è riuscito, malgrado gli incidenti di inizio della stagione, a trovare una salute, prima di tutto una salute, adesso cercheremo di trovare anche la condizione fisica che gli permetta di essere sul podio a Milano come primo obiettivo. C'è chi pensa che il Giro vivrà su un dualismo interno alla Lampre tra Damiano Cunego, che ieri non è andato benissimo, chiudendo in 11.29, e Michele Scarponi, tempo molto alto anche per lui, che correva in maglia rosa, 11.32. C'è chi pensa a questo dualismo, non lo stesso Cunego. Ma questo dualismo lo state creando voi puntualmente, come succede quasi ogni volta, come è stato anche con Simoni qualche anno fa. Io credo che invece dovremmo preoccuparci più dei nostri avversari. Oggi sempre in Danimarca, prima tappa in linea, partenza e arrivo sempre a Dering dopo 206 km, 65 dei quali lungo il Mare del Nord, quindi attenzione al vento che potrebbe favorire le fughe. Ed è tutto per questo primo appuntamento di oggi con il Giro d'Italia. Di nuovo buona domenica. Voci dal Giro.